Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, siamo dunque arrivati ad agosto e quindi buon agosto, buone ferie a chi le sta trascorrendo, un mese che magari può essere dedicato a qualche lettura in più, e allora vi do un libro che può essere un viatico per scegliere dei libri da leggere, quello che ha curato Romano Montroni, che è uno dei grandi librai italiani, nonché formatore di librai italiani. Il libro che ha scritto si intitola I libri ti cambiano la vita, 100 scrittori raccontano 100 capolavori, pubblicato da Longanesi, 348 pagine, 14,90 euro. Il sottotitolo è eloquente, abbiamo appunto 100 intellettuali che ci invitano in brevissimi saggi di non più di 2-3 pagine a leggere dei titoli classici e meno classici che secondo loro meritano di essere ripresi in mano. Ci sono tante segnalazioni, quindi tanti spunti, tante indicazioni, e allora di tutte queste voglio ricordare solo il primo dei 100 col quale si apre la raccolta rompendo l'ordine alfabetico, e si capisce la ragione, è il capitolo che ha scritto Lucio Dalla, il quale Dalla scrive: sì, lo ammetto, sono anche un po' deficiente nel senso quasi buono della parola, un po' ritardato, ma sicuramente felice, perché primo, non mi annoio mai; secondo, quando le cose che vedo, che leggo, le capisco, entrano dentro di me con deliziosa mollezza, una naturalezza da volo di rondine, fino ad arrivare, senza che io né loro lo vogliamo, addirittura fino al mio ginocchio. E tra parentesi, il libro che segnala Lucio Dalla è Io ed Io di Vito Mancuso. Vorrei entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè. Un altro libro che ci invita a un esercizio con i libri è quello di Carola Barbero, studiosa e giornalista, intitolato La biblioteca delle emozioni, leggere romanzi per capire la nostra vita emotiva, è pubblicato da Ponte alle Grazie, 154 pagine, 14 euro. Questo è un libro particolarmente adatto a questo periodo perché è organizzato in laboratori che analizzano attraverso un titolo le emozioni, e dunque troviamo tristezza, stupore, allegria, paura, speranza, potere, amore, rimorso, rispetto, attesa, eccetera. E questo libro ci invita ad affrontare queste emozioni prendendoci il nostro tempo, perché il laboratorio richiede la lettura del libro consigliato. E vi ho detto quali sono le emozioni analizzate e vi invito allora ad ascoltare queste righe su un'emozione della quale abbiamo tutti bisogno, la speranza, associata qui a Zazì nel metrò di Raymond Queneau. Zazì è una ribelle che dice parolacce a tutto spiano. Se ne frega di quanto le viene imposto e appena riesce mette in difficoltà, talvolta quasi terrorizza, gli adulti. Il mondo in cui si muove, quello del quale noi adesso facciamo parte, è un mondo assurdo, pieno di contraddizioni, in cui la gente fa il contrario di quello che dice e vive inciampando nelle menzogne. Perché abbiamo smesso di giocare con le parole e raccontare frottole con il solo scopo di rendere la realtà meno noiosa? Da quando abbiamo cominciato ad avere il desiderio di fregare gli altri e l'abitudine di raccontare bugie per coprire i nostri tradimenti e le nostre malefatte? Come lo zio Gabriel e il conducente del taxi Marcel, gli adulti mentono di continuo e la sincerità è un miraggio. E allora proseguiamo con qualche grande libro che non mancherà di suscitare nei lettori molte emozioni. Cominciamo con un grandissimo classico, forse più citato che letto e che invece merita di essere ripreso per l'importanza nella letteratura francese e per l'autentico divertimento che ancora oggi può assicurare a quasi 500 anni dalla sua pubblicazione, cioè Gargantua e Pantagruele, che esce in una nuova edizione. L'autore naturalmente è François Rabelais e lo ripropone Bompiani con il testo francese originale a fronte. Il libro è tradotto da Antonella Matuzzi, Dario Cecchetti, Paola Cifarelli, Michele Mastroianni e Leonello Sozzi, che è anche il curatore. Sono oltre 2000 pagine, il libro costa 35 euro. Proprio Sozzi ci invita nella sua introduzione a non indulgere alla lettura carnevalesca del romanzo, ma di cogliere le sue dimensioni spirituali e religiose, libere, non dogmatiche. pratiche e infatti, spiega secondo Rabelais, l'uomo può scegliere tra diversi livelli di esistenza proprio perché è dotato di un libero volere. Gargantua si propone di abolire ogni giogo di servitù. Pantagruele dal canto suo è mosso anch'egli da un intento di libertà totale. Avviciniamoci ai nostri tempi con un altro autore intramontabile, James Joyce, di cui Rizzoli ripropone uno dei primi e già geniali titoli, ossia Il ritratto dell'artista da giovane, 296 pagine, 8,90 euro, tradotto da Luciana Bianciardi. Tim Parks, nella sua prefazione a questo libro, raccomanda al lettore neofita di Joyce di subordinare gli aspetti del libro a un'unica domanda generale: come si pone il protagonista Stephen, capitolo dopo capitolo, in rapporto ai personaggi e alle istituzioni che rappresentano il suo mondo, famiglia, scuola, nazione, religione, amici, ragazze, letteratura e, non dimentichiamolo, la lingua? Qual è la posizione che assume nei loro riguardi? Il ritratto prosegue innanzitutto la storia di un giovane alla ricerca di un posto nella vita, una posizione in rapporto gli altri che non lo metta a disagio. L'altro grande invece che vi ripropongo è italiano ed è Carlo Emilio Gadda, di cui Adelphi pubblica uno dei testi più noti, La Dalgisa, 432 pagine, 24 euro. Questo libro raccoglie una serie di disegni milanesi, come li chiamò l'autore, che sono il frutto del progetto originario di un romanzo, Un fulmine sul 220, che era stato portato avanti tra il 1932 e 36 e che poi vennero ripubblicati appunto autonomamente nel 1944. Questo è un libro fondamentale davvero per accostarsi a uno dei grandi della nostra letteratura e anche per divertirci dinanzi alle implacabili descrizioni della borghesia produttiva milanese, della quale forse la sintesi migliore è la presentazione del rito delle necrologie che accompagna la dipartita di ogni milanese che si rispetti. Lavoratori indefessi, consiglieri, sindaci, amministratori, presidenti, negli anonimali consessi, non concedevano un minuto allo svago, non dirò all'ozio. La loro vita era esclusivamente dedita alla famiglia e al lavoro, indefesso, con applicazione d'ogni giorno, d'ogni ora, d'ogni minuto. Così, dicono i virtuosi del crescendo, preparavano ognuno a sé medesimo il suo funerale, il testamento al notaio e il palpiruolo agli eredi, fra cui primeggia, per disinteresse e nobiltà d'intenti, e spicca sopra ogni altro per vetustà di impianti sforzesca l'ospedale maggiore di Milano e delle province lombarde. 22 banche quel giorno, 8 assicurative, incendi o trasporti, 33 cotonifici e 70 società elettriche e paraelettriche fra grosse e piccine, fra madri e figlie, riempiranno del loro unisono nero listato colonne e colonne del Corriere della Sera. Il grande ufficiale dottor ingegnere Maurizio Rinaldoni, senatore del regno, come fosse una meba, si sdoppierà e moltiplicherà in una serie infinita di Maurizio Rinaldoni, Maurizio Rinaldoni, Maurizio Rinaldoni, Maurizio Rinaldoni, da rimanerci inebetito il lattaio. Tutto dedito alla famiglia e al lavoro, il grande ufficiale dottor ingegnere Maurizio Rinaldoni, presidente di qui, amministratore delegato di là, e più sotto alla famiglia e al lavoro, e ancora più sotto famiglia e lavoro. E dopo tre dita di nuovo famiglia e lavoro, famiglia e lavoro, famiglia e lavoro, famiglia e lavoro. Impossibile sperare nella variante lavoro e famiglia, data la gerarchia degli affetti. Un'altra sorta di breviario per poter scegliere un grande libro per questi giorni di riposo è un classico di Pietro Citati, il grande critico letterario, di cui Adelphi ripropone Il tè del cappellaio matto, 348 pagine, 14 euro, una raccolta di brevi ma spesso fulminanti saggi su tanti libri, scrittori, personaggi, dai re di Micene fino a Musil e appunto a Gadda. Un libricino politicamente scorretto sul piacere di leggere è una breve novella di Cechov intitolato appunto La lettura, riproposta con un altro racconto dello scrittore russo da Adelphi, 72 pagine, 6 euro, la traduzione di lusso perché è del grande Tommaso Landolfi. Politicamente scorretta, dicevo, questa novella perché qui la lettura dimostra di poter diventare uno strumento o una scusa per diventare matti, soprattutto quando a leggere ci obbliga un antipatico superiore dell'ufficio. d'ufficio. Questa novella è del 1884 e appartiene quindi al periodo iniziale del Chekhov scrittore, quando egli era pagato 60 copechi per riga, ma non doveva scrivere più di 120 righe. L'altra novella contenuta nel libricino è Kashtanka, questa un po' più lunga, su una cagnetta che assume quasi un carattere umano nella sua natura irresponsabile e femminilmente sventata, come la presenta Giovanni Maccari nella postfazione. E invece un libricino magari trascurato di un'autrice italiana, anch'ella forse troppo trascurata, cioè Matilde Serao, la grande giornalista e scrittrice che fondò Il Mattino a Napoli, e Saper vivere, norme di buona creanza, è pubblicato da Mursia, 174 pagine, 14 euro. Un libro delizioso, è scritto in piena Belle Époque, che si può però brandire ed esibire davanti agli attacchi dei troppi cafoni che certamente angustieranno molte giornate in questo periodo. Si parla qui delle regole del bon ton, dunque, purtroppo assai trascurate e dominate da questioni brucianti, come ad esempio quella se le donne possano o addirittura debbano fumare. E sentiamo queste righe assai attuali sul perché si deve andare in villeggiatura. Infine, poiché la villeggiatura è, come dicono molti, un male sociale necessario, o come dicono molti altri, un bene fisico più che necessario, poiché in villeggiatura per un gran numero di persone vi sono molte misteriose e imperiose ragioni di andare, il miglior consiglio è di affrontare questo assillante problema annuale con tutta la saggezza di cui si può disporre. Anzitutto, con un'indagine veramente poliziesca. Lettere, informazioni, interviste, mettersi al corrente di tutti i vantaggi e di tutti gli inconvenienti del posto dove si deve andare. Dopodiché, o marito o capo di famiglia, non ti scoraggiare più oltre. Sii ottimista, anche per questa villeggiatura che ti sembra una croce estiva che ti piomba sulle spalle ogni anno. Può darsi che essa faccia bene alla tua salute. Può darsi che ti dia l'occasione di un buon affare. Può darsi che tua figlia trovi un buon marito colà. Può darsi che tua moglie guarisca i suoi nervi, sempre vacillanti. Può darsi che tuo figlio si conduca quasi bene, per eccezione. Può darsi che in cambio di una pessima cameriera che se n'è andata, per la villeggiatura tu ne trovi un'altra, quasi possibile. Chissà, chissà, chissà, la villeggiatura non è forse una parte dell'ignoto? Una villeggiatura particolare è quella narrata da Michela Murgia nel libro L'incontro, in Audi, 104 pagine, 10 euro. Questa è una novella sull'esperienza incantata che ogni anno diventa per Maurizio la vacanza presso i nonni a Crabas. Qui il periodo di vacanza scolastico diventa un'esperienza di vita nella quale i personaggi maturano e sedimentano rapporti che li domineranno per tutta la vita, come dimostrano le righe iniziali del libro che vi propongo. Abbiamo giocato nella stessa strada. È così che si diventa davvero fratelli a Crabas, che venire dalla stessa madre non ha mai reso parenti neanche i gatti. Benedetto sempre sia il rispetto per la carne della nostra carne, ma la strada e l'averci giocato insieme offre ai bambini una più alta dimensione di parentela che nemmeno da adulti sarà mai dimenticata. Non c'è niente di intuitivo nella generazione. Il sangue segue percorsi torbidi e per questo nessun ragazzino crede davvero che basti condividere il cognome di un padre per rivendicarsi seme comune. Ma quello del 1968 sarà un appuntamento molto particolare che cambierà la vita del protagonista bambino. Il finale del libro, il caso di dire, è pirotecnico e sorprendente perché introduce tra l'altro la scoperta di un modo di convivenza possibile in una società ancora fortemente radicata attorno ai campanili e alle famiglie. Un'altra scrittrice alla quale è utile riaccostarsi è Gianna Manzini, una delle grandi autrici del Novecento italiano, morta nel 1974. Di lei viene riproposto Scacciata dal Paradiso, pubblicato da H, 228 pagine, 14 euro. Queste sono brevi osservazioni raccolte nell'arco di circa 30 anni, nelle quali la Manzini offre una visione della vita che magari riesca ad avere al suo centro la bellezza. Sempre H ci ripropone un altro scrittore, questo scomparso pochi anni fa, Giuseppe Bonura. Di lui viene pubblicato Racconti del giorno e della notte, 276 pagine, 14 euro. Bonura fu giornalista e scrittore di successo, di cui vengono qui presentati degli scritti ritrovati nel suo archivio e costruiti attorno al volgere della giornata, e quindi abbiamo i racconti del mattino, del pomeriggio, della sera e della notte. Sono racconti che danno uno spaccato del mondo di Bonura, delle sue idiosincrasie e passioni, ma anche testimoniano la capacità di costruire costruire atmosfere incantate come quella improvvisamente creata da una signora misteriosa che dal buio reagisce con un salute allo starnuto dello scrittore. Oggi ricorre il cinquantenario della scomparsa tragica di Marilyn Monroe, e chi appartiene alla mia generazione e i più anziani ricorderanno quel 5 agosto che impressione tutti avemmo, anche se magari eravamo ancora bambini, a leggere di questo evento sui giornali di allora. E allora vi ricordo il libro di un grande scrittore americano, Norman Mailer, morto 5 anni fa, che dedicò quest'opera proprio a Marilyn Monroe nel 1973. Si intitola Marilyn, è pubblicato da Dalai Editori, 310 pagine, 18,50 euro, ed è tradotto da Andrea Danna. Marilyn, secondo l'autore, rappresentava la relazione amorosa di ogni uomo con l'America. Fu un angelo del sesso ricca di contraddizioni, per esempio, scrive Mailer, un'appassionata dei libri che non leggeva. Insomma, un mito dalla vita difficile fino alla scomparsa avvenuta appunto a 36 anni. Questa di Mailer non è una semplice biografia, ma uno scandaglio nella psicologia difficile dell'attrice e nei suoi amori complicati, tra cui celebre in particolare quello con Arthur Miller. E sentiamo qui dal libro una testimonianza di questa difficile psicologia di Marilyn Monroe. È quasi impossibile valutare con sistemi umani o chimici la portata della sua rabbia animale in questi anni di perfezione artistica. Eppure deve superare tale tensione per potersi presentare al mondo come quella figura di immacolata tenerezza, dal totale smarrimento e dalla stolida dipsomaniacale dolcezza che è Sugar Cane in A qualcuno piace caldo. Nonostante tutto, sarà la sua più grande interpretazione e il suo più grande film. Prenderà un'improbabile farsa e in qualche modo offrirà un certo indefinibile senso di promessa a qualsiasi assurda logica presente nell'ottuso schema delle cose, fino a far diventare il film il più raro degli oggetti artistici moderni, un'affermazione. Il pubblico, alla fine delle 2 ore di spettacolo, è più affascinato di prima dall'idea della vita. Nonostante tutta la maestria di Wilder, e non avrebbe potuto esserci un regista migliore, e nonostante le prestazioni di prim'ordine di Tony Curtis e Jack Lemmon, e la bravura dell'attempato Joe Brown, non sarebbe che un film divertente, niente di più. Un film che lo spettatore dimenticherebbe appena uscito dal cinema, se non fosse per la Monroe. L'evocazione da lei creata è così felice e incomparabile che sembra accordarsi con la disposizione stessa delle cose, come se Dio, dopo aver posto pochi uomini giusti sulla Terra allo scopo di tenere assieme l'universo, ora mantenesse la coesione del cosmo anche con alcuni angeli dall'intelletto offuscato. Siamo negli Stati Uniti, negli anni in cui Marilyn si afferma, con il libro di Antonio Monda, scrittore e giornalista, L'America non esiste, pubblicato da Mondadori, 272 pagine, 18 euro. Abbiamo qua due ragazzi italiani, improvvisamente rimasti orfani, che si avventurano da un paesino del sud a New York, dove si appoggeranno presso uno zio che vive lì e ha fatto fortuna. Qui Nicola, il protagonista, avvierà una sorta di duello con New York per conquistarla e coglierne tutte le opportunità in un periodo che è già di straordinaria vivacità. A New York Nicola collaborerà con Rocky Marciano, anch'egli un immigrato che vuole diventare un mito, e finalmente approderà nel suo sogno, cioè Manhattan, che lascia per Brooklyn. E finalmente coronerà il suo sogno, cioè quello di conquistare Manhattan abbandonando Brooklyn. La riscoperta di un'America precedente, quella degli anni 20, è l'autore John Williams, uno scrittore texano che è morto nel 1994, ora molto rivalutato dalla critica americana, di cui Fazzi ripropone Stoner, 332 pagine, 17,50 euro, tradotto da Stefano Tummolini. William Stoner è il protagonista, un ricercatore di un'università americana, non fra le più note, protagonista di una vita sostanzialmente incolore che nelle pagine di Williams assume però tratti appassionanti, profondi e strazianti, come ricorda Peter Cameron nella postfazione al libro. Rimaniamo negli Stati Uniti di quegli anni per ricordare un episodio che ebbe un clamore universale, cioè il processo e l'esecuzione di Sacco e Vanzetti. E proprio di Sacco e Vanzetti Claudiana pubblica lettere scritte dal carcere, sono curati da Lorenzo Tibaldo, 324 pagine, 28 euro. La storia è nota: nel 1920 2 italiani vengono arrestati, sono anche anarchici, per aver compiuto una rapina sfociata in un duplice omicidio. Appunto per le loro convinzioni politiche, i due sono subito considerati colpevoli, saranno condannati a morte, nonostante molte testimonianze a loro favore e addirittura la confessione di un pregiudicato. La condanna sarebbe stata poi eseguita solo nel 1927, e qui la cronistoria di questa lunghissima attesa in carcere, che sarebbe stata caratterizzata da una forte mobilitazione in tutto il mondo. E infine due grandi classici della letteratura americana, Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau, La semplice verità, diari inediti, sono curati e tradotti da Stefano Paolucci per Piano B Edizioni, 346 pagine, 18 euro. Emerson e Thoreau sono certamente due simboli della cultura americana, tra i padri della letteratura degli Stati Uniti e i grandi intellettuali dell'Ottocento. Emerson in particolare è il fondatore dell'individualismo democratico americano, e Thoreau è autore di due opere celeberrime che hanno forgiato la personalità degli americani, cioè Walden, La vita nei boschi, e Disobbedienza civile, uno dei primi e più importanti grandi testi libertari. Qui troviamo pagine dei diari dei due che dialogano tra di loro, dando quasi vita a una trama narrativa che ci fa entrare nella loro formazione e nel loro pensiero. Vi propongo queste righe di Thoreau, scritte tra il 1845 e il 1847, quando l'autore ha tra i 28 e i 30 anni. I piedi nudi sono più antichi delle scarpe. È duro avere un sorvegliante sudista, peggio ancora averne uno nordista. Ma peggio di tutto è essere schiavisti di se stessi. L'opinione pubblica è un tiranno assai debole a paragone dell'opinione che abbiamo di noi stessi. Quello che io penso di me, ecco ciò che determina il mio destino. Quasi tutti sanno come guadagnare dei soldi, ma neppure uno su un milione sa come spenderli. Se avesse saputo anche solo questa cosa, non li avrebbe mai guadagnati. Un uomo dovrà rimanere su questo pianeta senza imparare alcunché, senza accrescere il proprio sapere, limitandosi a sostentare il corpo e con ansia morbosa a salvarsi l'anima? Questo mondo non è adatto a chi non ne scopra le leggi. Un classico a noi più vicino è William Faulkner, di cui Trans-Europa propone un aspetto meno noto, quello poetico, presentato nella raccolta Poesie del Mississippi, 76 pagine, 9,90 euro, tradotte con il testo a fronte da Vanni Bianconi. Queste sono poesie giovanili, scritte tra il 1924 e 1925, ed erano state dedicate a donne di cui Faulkner si era innamorato. Sono versi, come nota Marco Missiroli nella prefazione, nella quale si ritrovano già molti elementi della letteratura futura. Spunti ben più roventi troviamo in un libro che è a suo modo ormai un classico, La donna da altri, di Goethe Lese, pubblicato da Rizzoli, 612 pagine, 14 euro, tradotto da Francesco Saba Sardi. In un'estate dominata dal successo del porno soft, come quello attuale, viene riproposto un lungo e minuzioso reportage che aprì gli occhi sull'evoluzione dei costumi sessuali degli americani. Il libro è il risultato di un'inchiesta durata 9 anni, fino al 1980, secondo lo stile del New Journalism, come ricorda Walter City nella postfazione, e quindi troviamo tante interviste, grande capacità letteraria nel dare forma al materiale, capacità di fotografare certi personaggi diventati mitici a modo loro, come il direttore di Playboy Hugh Hefner. L'autore avverte: questo non è un libro scandaloso, ma un lungo documentario che Talese aggiorna in questa edizione, considerando le nuove frontiere del sesso rese possibili per esempio da internet. Per questo Talese scrisse nel 2009 di non credere che l'America del XXI secolo si stia soggettando al cosiddetto neopuritanesimo. Un'arte tipicamente americana è quella del blues, che troviamo nel libro di Elijah Wald, musicista e storico della musica, che si intitola appunto Blues, è pubblicato da EDT, 148 pagine, 12,50 euro, tradotto da Marcello Piras. Il blues è una forma musicale nata quasi 100 anni fa, che è considerata quasi un grido dell'anima, che ha prodotto, accanto a musica tra la più toccante, anche migliaia di brani comici e ballabili trascinanti, scrive l'autore. La prima musica chiamata blues pare fosse lenta, ma non per questo triste, era un erotico ritmo da ballo in voga tra i neri della classe lavoratrice a New Orleans e in altre zone del profondo sud. Interessante il richiamo a considerare in questo libro il blues non soltanto una musica, ma anche un'espressione poetica, e le osservazioni relative alle contaminazioni con altri generi, da ultimo il rock. Tutt'altro genere musicale troviamo in Grunge is Dead, di Greg Prato, giornalista musicale americano, pubblicato da Odoia, 526 pagine, 24 euro, tradotto da Stefano Focacci. Il movimento grunge ha avuto il suo momento di gloria tra il 1992 e il 1995, segnato dal successo di gruppi come i Nirvana. E l'autore va a rintracciare i testimoni di quell'esperienza per spiegare il clima in cui nacque quel movimento, le sue ramificazioni meno note, le radici ideali, le città nelle quali si affermò, a partire naturalmente da Seattle, nella quale nasceva il nuovo stile musicale che non ebbe origine e vita certamente facili. E a questo punto il confettino. Propongo anche ai più piccoli un altro mito americano, il grande illusionista Houdini. Nel libro di Pierfrancesco Poggi, Houdini, il mago della fuga, illustrato da Umberto Mischi e pubblicato da Bianco e Nero, 80 pagine, 9,50 euro. Nella collana Strani tipi, la storia del grande prestigiatore che eccita la fantasia di un bambino, Roy Horvath. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Pietro Lacorti, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.